Bratislava, che popolo, che popolo, ma neanche un popolo, come due popoli, guarda. Maron, come mi ha tenuto il camion, come me l'ha tenuto, grazie, grazie. Guarda, me l'ha tenuto veramente un gioiello, Maron. C'è anche il film, Slav, brava gente. Guarda la fiancata, liscia, lustra, linda ma pulita. Guarda la punta, ho sempre detto io, come Slav... Ciao Tirza, grazie ancora di tutto. Ecco, grazie a te. The best rock and roll station in the world. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Nel test attitudinale di quest'oggi siamo tornati a parlare di Radiohead. Sapevate perché hanno scelto questo nome? Forse, come ipotizzato dalla soluzione A, perché è il titolo di una canzone dell'album dei Talking Heads intitolato True Stories? Infatti, e allora? È la risposta esatta. Dopo un attimo di suspense che rischia sempre l'infarto, era la soluzione giusta, quindi era completamente inventato che Radiohead era il soprannome del compagno di scuola che se ne andava in giro con la radio sulla testa, però era carina. Sì, belle ipotesi. Tutti abbiamo un compagno di classe che va in giro con lo stereo. Che va in giro con lo stereo sulle spalle. Tunz, tunz, e completamente tunz. Inventata era anche il racconto di Isaac Asimov intitolato Radiohead. Complimenti, una bella fervida fantasia. Grazie. E complimenti a coloro che là fuori hanno indovinato rispondendo esattamente. Due bei punticini per la patente da veri rocker. vera spina dorsale di questa trasmissione radiofonica. Annunciarlo come un semplice comico è cosa ben riduttiva. Chissà con quale freddura inizierà quest'oggi il grandissimo Roberto Fricantoni. Ariel, brucerai all'inferno. Ma cosa sta dicendo? Ma è? Brucerai all'inferno. Maestro, si calmi, non si dicono queste cose. Ma quali cose? Buongiorno, Ariel. Buongiorno, Roberto. Salve. Salve. Lei ha appena iniziato dicendo brucerai all'inferno, Ariel. Assolutamente no, mi scusi. Che strana, la vedo strana. È sicura oggi, di non aver mai detto niente? Certamente. Andiamo sì. Allora con la rubrica di quest'oggi. Brucerai all'inferno! Maestro, l'ha detto ancora. Lei ha ancora detto brucerai all'inferno. Non mi pare. Tra l'altro è papabile di querela, lei sa? Ah sì, non mi permetterei mai del resto di dirlo. Maledetto Ariel, brucerà l'inferno! Maestro, forse tu lei... e tutta la redazione brucerete l'inferno! Lei si deve calmare, Roberto probabilmente non si sente molto bene. Beh, sì, effettivamente. Aia, io l'ho già sentiti sti colpi di tosse. Ho paura a chiedere di parlare, maestro. Vede, non si capisce niente. Maestro, non si capisce una parola di quello che dice. Tra l'altro avrei dovuto intuirlo da prima. Lei è vittima del demonio. Oi nome, oi nome. E invece sì, maestro, sta parlando al contrario. On, ma tu lo sa, on e on. Guardi, può parlare per un'ora intera e non si capisce nulla, a meno che ci siano degli altri indemoniati là fuori. E sa come facciamo a scoprire se lei sta veramente parlando al contrario oppure no? Con un bel palindromo! E la passaxi droxale! Lei deve dire solo sì, palindromo. Omar Nilabis. Eccolo qua, dai. Non si agiti comunque, perché non le do la pillola, se no. Alolipis, alolip. E allora leggiamo questo. Annoda, l'alluce e culla la donna. Non si capisce, lo dica. Annoda la luce sulla donna. Il grandissimo Roberto Fricantoni che parla al contrario. Solo noi ce l'abbiamo. Elibis of me. Come? Allolip. Allolip. Bilolà. Lei vuole la pillola. Bilolà. Sì, sì, sì. Sta iniziando a prendere. A prendere le misure anche sul parlare al contrario. Sì, sì. Eccogliela qua la sua pillolina di quest'oggi. Non ho capito cosa ha detto, ma l'intenzione era chiara. Prenda la pillola, prego. Idraxale. Eccolo qui, dovrebbe essere tornato tra di noi Roberto Fricantoni. Perché? Dov'ero stato? No, maestro, c'è stato un piccolo equivoco con... sa quella storia del patto col diavolo che a volte torna fuori? Ma è una sua invenzione. Sì, sì, però parlava al contrario, l'hanno sentito. Assolutamente l'hanno no. L'hanno sentito tutti, sì. Tra non l'altro, mi pare. Era un po' pare. Anche aggressivo quest'oggi, se devo essere sincero. Ma non mi pare, assolutamente. Adesso è bello calmo, infatti. Ma infatti. Andiamo a prenderci un caffè, dai. Ficcatelo nel culo! Maestro, cosa sta dicendo? Andiamo a prendere un caffè che è meglio, lasciamo stare, dai, andiamo. Lei mi preceda, mi ecco, preceda sì, pure. Va bene, andiamo. Dammi le spalle che ti aggiusto io con una coltellatina tra le scapole. Maledetto Ariel! Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Hey. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. Brucia, brucia. Giovanni Pilla, Johnny Cash, Ring of Fire. 8 e 42 minuti primi in un lunedì molto difficile per noi di Pane, Burro e Rock and Roll, a causa poche ore di sonno, ma una trasmissione che svolta, una puntata numero 132 che finalmente entrerà negli annali delle puntate di Pane, Burro e Rock and Roll, perché siamo riusciti finalmente a trovare uno studente che in questo momento... Perché andare a scuola oggi? Avete qualche buon motivo per cui andare a scuola quest'oggi? No. Si può anche non andare e fare come ha fatto la nostra amica Lorena. Benvenuta a Pane, Burro e Rock and Roll. Lorena, 18 anni, liceale. Ma quest'oggi perché andare a scuola? Esatto. Dico, la domanda era questa stamattina: perché andare a scuola? Ma ce lo chiediamo un po' tutti. Allora, Lorena, avrei preferito... Io volevo chiamarti con un nome finto che faceva tutto un po' più losco. Ma tanto... Tipo Signorina X. Chiamami Signorina X. No, ormai ti ho chiamato Lorena, non posso. Allora, Lorena, abbiamo scoperto che non è che non è andata a scuola stamattina perché c'era qualcosa di particolare. No, infatti. Cioè, non è che hai saltato un'interrogazione. No, per niente. Lorena ha deciso di bigiare perché? Per andare a cercare un po' di vinili. Semplicemente. Per fare un po' di shopping. Esatto. Perché dici, perché andare nel pomeriggio che c'è un sacco di gente? Andiamo di mattina. C'è meno gente. La motivazione mi sembra forte, sai, Lorena. Ci mancherebbe altro. Tra l'altro siamo assolutamente in squadra con te, perché questa immagine di andare a comprarsi vinili è molto positiva. È molto rock. È molto rock. Senti, dove vai di bello a comprare i vinili stamattina? Qui oggi c'è Milano. la metà di braccio, perché molti lo snobbano, ma c'è un po' di tutto. Te può ancora Sposato. Andare. Tra l'altro sei anche la testimonianza che a 18 anni la gente può ancora sapere cos'è un vinile. Sì, io sono molto fissata. Ai ai ai ai. E gli MP3? Anche, vabbè, ma quelli sono io indispensabili per... Lorena è la nuova generazione, la generazione X, testimonianza diretta, Pane, Burro e Rock and Roll. Sì MP3, ma sì anche vinile. Brava Lorena. Grazie. Che grazie. Orgoglio, cazzarola. Senti un po', mi chiedevo, per gli altri studenti che hanno serie intenzioni di bigiare, hai qualche consiglio da dare? Oddio, in realtà non particolarmente, basta la voglia. Perché per la giustificazione non c'è divertimento, perché sei maggiorenne e te la fai tu. Esatto. Ma... anche perché non sono mai stata capace di fare le firme dei miei. Però è più bello fatto con le firme. Non ti va di fare lo stesso con le firme finte? Potrei. Così. Se vuoi te le faccio io un po'. No, ah, no. Vengo a trovarmi. No, se vuoi vieni qui e ti prepariamo la giustificazione firmata da me. Potrebbe essere un'idea. Tanto direi se non... potrebbe essere l'evento dell'anno. L'evento dell'anno, se non hai niente da fare. Intanto sono orgoglioso di aver finalmente mandato in diretta la prima bigiante della stagione di Pane, Burro e Rock and Roll. Così mi emoziono. Buon proseguimento di giornata, buon acquisto. Grazie. Facci sapere anche la prossima volta che salti, Va benissimo. Siamo in squadra con te. Ciao Lorena. Ciao. I'm living on. dire che non sto nella pelle. Abbiamo lanciato il concorso per poter essere provinati e trasformarsi in musicisti rock con la bocca. Guardi l'entusiasmo che scherzi mi fa. Non si riesco. Ma smetta di tremare, non la vedono da casa. Non la riescono a vedere. Ah, già, è vero. Possono vederla. L'effetto si è perso. Lei fa così perché vorrebbe essere lei il provinante per diventare un musicista rock con la bocca e invece anche sono stavolta loro. Stavolta mai tanato, maledetto Ariel. Maestro, prima o poi potrà farlo anche a lei, ma adesso diamo la possibilità a loro, Massimo, là fuori, di diventare musicisti rock con la bocca. Giusto. La redazione ci segnala un amico che ci contattava dalla città di Genova, dovrebbe chiamarsi Daniele e dovrebbe essere in linea con noi. Pronto Daniele? Pronto? Eccomi! Benvenuto a Pane, Burro e Rock and Roll! Ciao Daniele! Oh, grazie. Allora, iniziamo questa telefonata mettendoti un po' a tuo agio per il provino di quest'oggi. Va bene. Sei preoccupato? No. Sei tranquillo? Ok. Sì. Vuoi far sapere agli altri radioascoltatori come mai tu hai avuto questo privilegio di partecipare al provino di Pane, Burro e Rock and Roll? Io avevo ascoltato, ho sentito folle, ho detto sono folle anch'io e appennello per me. Ok, stiamo parlando con un cellulare immagino, perché ogni tanto va via la telefonata, speriamo non si rovini troppo. Comunque hai mandato un SMS dicendo musica rock con la bocca sì. Esatto. Perfetto. Perfetto Daniele, e allora per metterti a tuo agio una domandina semplice, quanti diesis ci sono in chiave per il brano che sta... Quanti anni hai Daniele? Ho 29 anni. 29 anni, e che mestiere fai? Sono operaio metalmeccanico. Fantastico! Allora, bravissimo! Hai già vinto. Era molto divertente la battuta che stava facendo, maestro. Sa, ce la segniamo, la rifaremo. Complicare un Daniele, po' le cose. Che strumento hai deciso di scegliere per suonarlo con la bocca? Ho scelto il trombone. Bravissimo, molto originale, molto originale. Senti, anche nella vita vera suoni un trombone? No, solo con la bocca. Ah, benissimo. Perfetto. Benissimo. Mi è venuta un'altra battuta e preferisco non farla. Perché in realtà tu detesti fare il trombone. Esatto. Quindi meglio bravo. Suonare, bravo. Meglio suonarlo che farlo. Molto Daniele, bello. Nella tua vita hai mai suonato uno strumento vero e proprio? Purtroppo no. No, nemmeno all'elementare, alle medie, il flauto, il classico flauto. Avrei il suggerito la trombetta. Trombetta? Colpo di scena. In realtà no. Daniele! Sei pronto? Possiamo chiederti se hai scelto un brano originale o una cover? È una cover. Ah, che cosa ci proporresti? Vi propongo On Step Behind the Madness. Banale però. Per il trombone è un. Va benissimo, sei sempre un passo avanti. Sei un amante della musica ska. Anche. Ti piace la musica ska? Non solo, sì. Benissimo. E allora se sei pronto, se sei caldo, se te la senti, noi ti daremmo il via. Quando vuoi parti con One Step Beyond, un passo avanti dei Vai Madness. Daniele! Sì pazzo! Madness! One step beyond. Bravissimo! Grazie, lo studio è in delirio. Daniele, ballavano tutti. Stavano ballando tutti. Sembrava tu avessi il riverbero e non riusciamo a capire come. Complimenti, hai fatto un eco naturale. Caro Daniele, stiamo dicendo a tutti, innanzitutto le faremo sapere. Ok? Stiamo chiedendo a tutti i provinanti, nel caso dovesse andare bene questo provino e decidessimo di fare una band di musicisti rock con la bocca, tu ci sarai? Certo. Tra l'altro il trombone secondo me a oggi non in tanti l'hanno scelto. Vero? Quindi molto originale. Meno male. In gergo si dice ti sei un po' parato il culo, via. Sì. Grande. Hai fatto una scelta furba. Daniele, abbiamo il tuo numero di telefono, ti rintracceremo ovunque ti nasconderai e grazie per il provino e per le emozioni che ci hai regalato. Grazie a voi ragazzi. Ciao. Rimani, Daniele. E resta no, così, grazie. Resta così un passo avanti. Vai Daniele. Una domanda, dimmi, una domanda dimmi, per te. Dimmi. Sei sempre ciccione o sei dimagrito un po'? È ciccione. No, sono addirittura obeso. Ma alla sua... Ma devi sapere che alla tua sorellina piaccio così. Per favore, ciao Daniele. Ciao. One step.

non vedo solo l'ora di terminare il weekend gigante. E quindi, caro Spadino, andiamo a concludere. Questa è la fine. Sì. Miei cari amici, è veramente la fine. Posso salutarti prima della sigla, Garavelli? Sì, buongiorno. Facciamo pure, che oggi è una giornatina di quelle. Allora, oggi il buon Garavelli un filo mi somatizza, giustamente, perché non riesce... Cioè, Marco, devi questa cosa che i nostri computer sono rock, devi accettarla, non devi prendertela. Loro accetto di rimanere sotto le coperte, e se sono rock sono rock. Abbiamo dei piccoli ma significativi problemi con la programmazione. Vabbè. Ma tranquilli, è male che vada, anche Garavelli è pieno di vinili a casa. Sì, sì, sì. Ce li possiamo portare. Peccato che non sono a casa mia in questo periodo, quindi... Al massimo chiediamo a Mox. Mox, siamo, potresti siamo portare posto. 10 kg di vinili, grazie. Pane, burro e rock and roll. Dobbiamo fare la programmazione della settimana. La tua colazione roll. Il nostro computer non se la sente tanto. Pane, burro, c'è stato in vacanza. Esatto, almeno lui. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Resisti Garavelli fino al mezzodì, quando poi passerà il testimone a Mock, che lui porta veramente i vinili, quindi sta preciso, lui che gli frega dalla programmazione. Farò. Esatto. Permettimi di salutare il povero Davide Toffolo, voce dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che mi ha chiesto ospitalità per la notte, solo che non si è ricordato che mi sveglio alle 5:30 del mattino, quindi purtroppo è stato svegliato a quell'ora e si è gustato insieme a noi la diretta di quest'oggi. È tutto per la puntata 132. Vi lascio con Garavelli, trattali bene. Come sempre, tranquillo, vai a riposarti. Il computer, dai. Vedrai che riprende. Sì. Forse doveva riposare un po' anche. Pure lui, va bene. Ciao.